Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, oltre 4.500 casi accertati, picco nelle ultime 24 ore, 106 le vittime in Cina, scuole e università chiuse. Rimosso da Facebook il video di Salvini al citofono di un cittadino bolognese per la piattaforma è fuori dagli standard sull'incitamento all'odio. Maggioranza Bonafede annuncia 9 miliardi di investimento nella giustizia, Renzi dopo il voto chiede un'agenda più riformista. Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, Italia bocciata dalla Corte di Giustizia europea. Stasera torna il calcio, alle 20.45 si gioca Milan-Torino, quarto di finale di Coppa Italia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie su Radio 24 a metà giornata. Cominciamo dai titoli in primo piano e poi dalle 13.15 i nostri approfondimenti. Poco fa il presidente cinese ha ammesso la gravità della situazione per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus dopo che già ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva alzato il rischio globale. Facciamo il punto con tutte le notizie con Rosana Magnano. La Cina ha intrapreso una lotta seria contro il coronavirus definito un demone e non terrà nascosta l'epidemia, lo ha assicurato il presidente cinese Xi Jinping. Uno sforzo imponente apprezzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che confida nelle capacità del paese di prevenire e contenere il contagio, ha detto oggi il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, che invita alla calma la comunità internazionale. La Cina, dove i casi sono raddoppiati in 24 ore, ha invitato i suoi cittadini a evitare i viaggi all'estero e ha chiuso, come dicevi, scuole e università, rinviando sine die l'inizio del secondo semestre. Sono una cinquantina i contagi oltre confine e in Giappone si registra un nuovo caso di trasmissione da uomo a uomo, contratto da una guida turistica mentre accompagnava un gruppo di cinesi provenienti da Wuhan. Il primo paziente in Germania, quarto caso in Europa con i tre francesi, è in isolamento ma in buone condizioni cliniche e Berlino sta lavorando a una possibile evacuazione dei suoi cittadini. È infatti già partita la caccia ai voli charter. Dopodomani primo rimpatrio per i cittadini francesi e oggi dovrebbero rientrare anche i primi giapponesi. Il governo britannico è pronto anche lui a garantire l'opzione del rimpatrio ai suoi cittadini e la Farnesina sta lavorando a un piano volontario di trasferimento dei circa 50 italiani residenti a Wuhan. Per ora è tutto. Grazie Rosanna Magnano per tutte le notizie per quanto riguarda il coronavirus. Adesso cambiamo pagina, veniamo in Italia con la politica. Dopo il risultato delle elezioni regionali, il segretario del Partito Democratico Zingaretti assicura che non chiederà alcun rimpasto nel governo. Ieri è intervenuto anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato una fase nuova per il governo. Renzi chiede un'agenda più riformista. La prima prova del governo post Emilia è alla Camera. Nel pomeriggio atteso il voto dell'emendamento del forzista Enrico Costa contro lo stop alla prescrizione della riforma a firma del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Voterà a favore anche Vincenza Bruno Bossio del PD, oltre all'opposizione e ad Italia Viva che conferma il no al governo. Maria Elena Boschi. Non possiamo indietreggiare su alcuni principi fondamentali come sul tema della prescrizione. Noi eravamo contro questa riforma della prescrizione quando eravamo all'opposizione, non l'abbiamo votata, non abbiamo cambiato idea adesso che siamo in maggioranza. Questo dopo l'intervista del leader di Italia Viva Matteo Renzi che ammonisce a non seguire giustizialismo o revoche impossibili come quelle di Autostrade. I 5 Stelle per il momento seguono la linea dura, Vito Crimi gela il segretario PD Nicola Zingaretti, gli equilibri nel governo non cambiano. Stasera arriverà il nuovo capo delegazione a Palazzo Chigi, in pollo lo stesso Bonafede e il ministro dello sport Vincenzo Spatafora, in un movimento sempre più diviso tra chi vuole il dialogo con il PD e chi invece no. C'è poi la questione di Matteo Salvini. Facebook blocca il video del citofono del leader della Lega perché incita all'odio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E uno dei nodi che attende la maggioranza è quello della giustizia. Oggi il ministro Bonafede era atteso in Parlamento per presentare le iniziative del governo. più investimenti e più assunzioni nella giustizia come strumento per ridurre i tempi dei processi e migliorare l'efficienza, prima ancora delle riforme. Ha insistito molto su questo il ministro Alfonso Bonafede nella relazione annuale letta stamattina alla Camera, snocciolando numeri. 500 milioni di euro in più per quest'anno, assunzioni per 600 magistrati e 8.700 unità di personale amministrativo, più risorse per i palazzi di giustizia e le carceri. Ma Bonafede non ha potuto sottrarsi alle sollecitazioni venute dalla sua stessa maggioranza, in particolare da PD e Italia Viva, che chiedono più dialogo nella maggioranza, l'addio alle bandierine e in sostanza l'addio allo stop secco alla prescrizione. Così Bonafede nella replica. Su tutti i temi del processo penale e quindi anche sulla prescrizione ci sono divergenze nella maggioranza. Il cantiere è aperto e ha l'obiettivo di garantire la certezza della ragionevolezza dei tempi, la certezza della risposta di giustizia, eliminando possibili zone di impunità. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di un caso di mala giustizia ci occuperemo nella seconda parte di Effetto Giorno, per la mancato deposito di una sentenza di condanna al tribunale di Catanzaro. Sono stati scarcerati 5 imputati condannati per gravi episodi di 'ndrangheta. E adesso invece l'Italia bocciata in Europa dalla Corte di Giustizia Europea per i ritardi nei pagamenti alle imprese. L'Italia non ha rispettato i tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia, chiudendo una causa aperta dalla Commissione. Secondo i giudici, l'Italia ha violato la direttiva europea contro il ritardo dei pagamenti nelle transizioni commerciali, perché non ha assicurato che la pubblica amministrazione, quando debitrice, rispetti effettivamente i termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario. La Corte ha valutato la situazione al 16 aprile 2017, ma lancia puntualmente che nonostante qualche miglioramento dovuto alla direttiva europea, i ritardi medi dei pagamenti nel settore delle costruzioni superano ancora 4,5 mesi per un totale di 6 miliardi di arretrati a danno delle imprese. L'opposizione attacca il governo. Conte lavori, dice Matteo Salvini, paghi in fretta i debiti della PA o si dimetta. Per il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, lo Stato è latitante quando si deve pagare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: due maestre di una scuola materna di Vittoria nel Ragusano sono state arrestate dalla polizia per maltrattamenti ai danni di bambini e a loro affidati. Secondo l'accusa, avrebbero insultato, spintonato, strattonato, percosso dei bambini indifesi. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra mobile di Ragusa su ordine del GIP. A Brescia invece raid neonazista contro una giovane donna proprio nel giorno della memoria. Questo avveniva ieri e si moltiplicano le scritte dopo il caso di Mondovì. Si moltiplicano le scritte e gli atti vandalici a sfondo nazifascista e razzista. Ieri a Torino una frase antisemita di insulti sui muri di un palazzo di Corso Casale, precollina di Torino, dove vive una donna di origine ebrea, figlia di una staffetta partigiana, proprio nel giorno della memoria. E sempre ieri sfondata la vetrina nella notte e insulti con un disegno di una svastica in un bar in provincia di Brescia, gestito da una donna italiana di 36 anni, nata in Italia, di origini marocchine. Non si fermano gli episodi dopo il caso della scritta contro gli ebrei apparsa a Mondovì nel Cunese sulla porta di casa del figlio di una donna sopravvissuta all'olocausto, Aldo Rolfi. Così si spiega questi gesti a Radio 24. Tutte queste manifestazioni qui denotano soltanto una cosa sola, che è l'ignoranza. Intanto i bersagli hanno paura, termini vecchi, passati, che però fanno ancora male, dice la signora Maria di Torino, che ha sporto denuncia in questura. E Madih Akhtibari, proprietaria del bar di Rezzato nel Bresciano, preso di mira dal raid razzista e sessista con insulti contro il colore della sua pelle, dice: non so se riaprirò il bar, sono spaventata e turbata, mi ha colpito che nessuno negli appartamenti vicini abbia sentito i rumori e denunciato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa, parlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Sannio, il capo dello Stato Sergio Mattarella è tornato sulla questione dell'intolleranza. In riferimento, ha detto, alla pseudocultura dell'odio e dell'intolleranza, la risposta è qui, in questo Ateneo e nelle altre università. A Milano smog di nuovo oltre i limiti e si annunciano nuovi blocchi del traffico. La prima domenica di febbraio, la prossima, sarà senza auto a Milano per gran parte della giornata, dalle 10 alle 18. Lo ha disposto il sindaco Sala dopo un nuovo sforamento dei valori di PM10 e viste le previsioni meteo che non lasciano sperare in un miglioramento nei prossimi giorni. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici o sui mezzi pubblici, afferma il primo cittadino, osteggiato dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, secondo il quale lo stop alle auto di domenica è un provvedimento inutile nonché punitivo per anziani e lavoratori. Il capoluogo lombardo non sarà l'unico a prendere misure contro l'inquinamento che tiene in una morsa la pianura padana. Da domani, infatti, il traffico sarà limitato in altre 8 province della Lombardia, a Torino, con la sua area metropolitana, in Veneto, dove scatta il livello di allarme 1 arancione per l'inquinamento da polveri sottili, e in Emilia-Romagna, dove risultano coinvolti 22 comuni. Ad essere penalizzati saranno in particolare i veicoli diesel, Euro 4 compreso. Quanto alla Lombardia, le misure antismog riguarderanno i comuni con più di 30.000 abitanti e quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra una settimana esatta inizia il Festival di Sanremo e oggi Tiziano Ferro ha svelato in che cosa consisterà il suo contributo. Sentiamo. Te la ricordi la sigla di Sanremo? Certo. Ma tu come la faresti? Ma tu l'avresti mai detto che avresti fatto tutte e 5 le serate di Sanremo? Chiede Tiziano Ferro all'altro se stesso che risponde, neanche sotto tortura. A chi hai detto per primo che avresti fatto Sanremo tutte le serate? A Victor probabilmente, ma quelli davvero scioccati sono stati i miei genitori. Ok, scioccati e contenti. Nel dialogo a due postato sui social, Tiziano Ferro svela anche qualche dettaglio sulla sua partecipazione. Cantare alcuni dei suoi successi e canzoni del la storia del festival, almeno Tu nell'universo, nel blu dipinto di blu, poi conferma che si esibirà con Massimo Ranieri. 1988, Massimo Ranieri, Perdere l'amore. Lui termina la sua prima esibizione, il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice: questo vince. E io da quel giorno penso che voglio essere come lui. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, stasera torna il calcio con i quarti di finale di Coppa Italia, alle 20.45 si gioca Milan-Torino, il quadro si completerà domani con Inter-Fiorentina. Per il tennis, vittoria di Roger Federer al primo dei quarti di finale dell'Australian Open, lo svizzero ha battuto l'americano Sandgren al quinto set dopo aver annullato ben 7 match point dell'avversario. Al secondo quarto di finale, vittoria per 3-7-0 di Djokovic su Raonic. 13 e 12 minuti, ci fermiamo qua con Effetto Giorno, facciamo una pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, a cominciare dalle novità, almeno sulla carta, che si annunciano per quanto riguarda il codice della strada, perché il testo di riforma oggi è tornato in aula, dal fumo alle multe alla velocità. Ecco le novità che ci potrebbero aspettare, ne parliamo con l'esperto del Sole 24 Ore, 349-238-6666 per i vostri messaggi e per commentare la giornata di oggi. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. Effetto Giorno. Coronavirus, oltre 4.500 casi accertati, picco nelle ultime 24 ore, 106 le vittime in Cina, scuole e università chiuse. In Italia il Ministero della Salute annuncia assunzioni di medici, praticanti e infermieri per aumentare i controlli negli aeroporti. Rimosso da Facebook il video di Salvini, per la piattaforma è fuori dagli standard sull'incitamento all'odio. Svolta degli elettori 5 Stelle nelle analisi post-voto, 2 su 3 in Emilia-Romagna hanno scelto il PD, che ora chiede un riposizionamento del governo. La riforma del codice della strada torna in aula, possibili novità su fumo, velocità e multe, ne parliamo tra poco con l'esperto del Sole 24 Ore. Stasera torna il calcio, alle 20.45 si gioca Milan-Torino, quarto di finale di Coppa Italia. e 15 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Iniziamo i nostri approfondimenti di oggi. Come avete sentito dai titoli, parliamo del codice della strada, le possibili novità, almeno sulla carta, perché la riforma, il testo della riforma torna in aula, ma cerchiamo di capire se e quanto di tutto questo potrebbe diventare concretezza, novità realmente per tutti quelli che circolano ogni giorno sulle strade e le autostrade. Con noi Maurizio Caprino. Buongiorno. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Grazie. grazie. Collega del Sole 24 Ore, lo conoscete bene, naturalmente è esperto di normativa stradale, è proprio per il quotidiano il Sole 24 Ore. Maurizio, prima di tutto una doverosa premessa, no? Perché che cosa succede? C'è un nuovo step di questo testo di riforma che si era fermato un po' di tempo fa. Ma allora, intanto, di riforma del codice della strada si parla ormai da 10 anni. Dalle guerre puniche, più o meno. Esatto. E ogni legislatura si porta presso una riforma che poi non viene mai fatta e viene, diciamo, vanno in porto dei singoli disegni di legge che apportano diverse modifiche. In questo caso siamo proprio nell'ultima fattispecie che ho detto, cioè esisterebbe già un testo possibile per le linee guida di una riforma, che sì, però quello non va avanti. Allora cosa hanno fatto? Hanno saldato insieme diverse proposte di legge modifiche sparse, le hanno messe appunto insieme in questo testo ed è questo il testo che viene discusso oggi. Questo però non dà alcuna certezza che questo dibattito vada avanti. Per cui, ecco, diciamo subito, quello che state per sentire, non prendetelo troppo alla lettera, non metteteci troppo alle strette. Esatto, anche perché deve passare al Senato, sì. Quando arriverà al Senato ci sarà tutto un altro scenario politico probabilmente, quindi insomma alla fine noi diamo soltanto le cose con beneficio di inventario. Assolutamente. Detto però questo, data la rilevanza di tutte queste cose di cui parliamo, è giusto sottolineare anche in questo passaggio quali sono le possibili cose a cui andiamo incontro. Allora, sono cose che probabilmente avete già sentito perché se ne è parlato già nei mesi e negli anni scorsi, quindi si parla dei 150 all'ora in autostrada, che sono la novità in realtà meno probabile di tutte perché c'è una forte opposizione comunque, è solo una proposta della Lega. Poi abbiamo la possibilità per le bici eventualmente di andare in controllando su alcune strade appositamente segnalate, il fatto che superando una bici si debba tenere a 1,5 metri di distanza come minimo lateralmente, poi il divieto di fumo, poi l'inasprimento delle sanzioni per il cellulare, per l'uso del cellulare, con la sospensione immediata della patente, mentre adesso c'è solo per i recidivi, e verrebbe anche raddoppiata la sanzione pecuniaria, e poi tante altre cose per fare un inciso su questo aspetto, l'ultimo che hai toccato, cioè quello delle sanzioni in aumento per la guida, chi guida mentre sta usando il cellulare. Sì. Intanto un inciso che ti faccio io è questo: tutte le auto ormai portano i monitor, auto nuove, sui quali si usa un termine brutto, si smanetta abbondantemente, ed è una cosa che provoca evidenti rischi di distrazione. Evidentissimi. Purtroppo questo è assolutamente legale, è un rischio legalizzato, ingiustamente legalizzato, perché oltretutto questi sono monitor che sono touch, per cui assorbono ancora di più l'attenzione, certo, in quanto basta una piccola buca e per non centrare la parte dello schermo che si voleva colpire, quindi si sbaglia, si deve rifare il comando, ulteriore distrazione, quindi si passano centinaia di metri a cercare di smanettare su questo monitor, cosa assolutamente delirante insomma, quindi, certo. Però legalizzata, e su questo il codice della strada nulla può fare per ora. E naturalmente è un tema complesso perché riguarda poi anche l'industria automobilistica che dovrebbe adeguarsi, e non solo. Invece questo aumento di sanzioni previsto per l'uso di device, soprattutto il telefonino alla guida, come giudichi questo incremento di pene proposto? Ma allora, perché è un tema molto molto importante. Allora assolutamente ci vuole, però il problema è che è difficile controllare. Allora la svolta verrebbe da controlli automatici, e ci sono già delle telecamere, sono in sperimentazione in Australia, in Olanda. Diciamo che dopo un po' di affinamenti stanno cominciando a dare dei risultati, quindi la vera svolta sarebbe poi fare un'ulteriore modifica al codice della strada per inserire questo tipo di infrazione fra quelle che sono accertabili in automatico, altrimenti adesso dobbiamo sperare che ci sia una pattuglia in zona, oppure tanti corpi di polizia si stanno organizzando con pattuglie in borghese di motociclisti, ma ovviamente sono gocce nel mare, diciamocela tutta. Ecco, l'altro tema molto delicato è quello della convivenza tra le automobili e gli altri mezzi, per esempio le biciclette in città. Questa previsione di stare a distanza di 1,5 metri è una previsione che sta a cuore naturalmente ai ciclisti, sarebbe molto importante. In tante strade, mi viene a dire, in città è molto difficile immaginarlo perché sono strade strette, come si fa? Non solo, poi in realtà è una previsione che è difficilissima da controllare perché occorrerebbero degli strumenti assolutamente incredibili, quindi verità sarà una cosa eventualmente applicabile soltanto poi in caso di incidente, comunque con tante contestazioni. La verità è che sono norme bandiera fatte per compiacere determinati gruppi organizzati che danno anche dei voti, però poi come applicabilità siamo veramente ai minimi termini. Bisogna imparare che ognuno di noi invece per strada ha una responsabilità, deve comportarsi con buon senso. Ecco, basterebbe anche il solo invito alla prudenza che fa il codice in generale, e c'è sempre stato nel codice, per risolvere tanti problemi. Il resto purtroppo è demagogia. Maurizio Caprino, grazie per essere stato con noi ancora una volta, collega del Sole 24 Ore. Staremo a vedere quali di queste appunto novità che si annunciano per quanto riguarda la riforma del codice della strada andranno avanti. Insomma, era doveroso tornarci su, anche se, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, per ora siamo solo in una fase, diciamo, di studio. Torniamo invece, quando sono le 13:21, sul risultato delle elezioni regionali, perché come avete letto anche sui giornali di oggi ci sono delle analisi dei flussi elettorali che vengono fatte. Un dato che balza agli occhi è sicuramente il passaggio del voto da molti elettori, ex elettori del Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, almeno per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Ci torna su oggi Daniele Biacchessi. In politica i dati sono fondamentali e dal voto in Emilia-Romagna giungono importanti indicazioni anche per i futuri equilibri politici all'interno della maggioranza che sostiene il governo Conte. L'affluenza e la straordinaria partecipazione sono stati determinanti per raggiungere il 34,7% dei voti primo partito in regione. Il PD ha intercettato il voto disgiunto del 5 Stelle e di buona parte della sinistra radicale. Il ritorno del far politica nei territori, le manifestazioni di Piazza delle Sardine, un programma incentrato su temi strettamente locali, hanno rafforzato il PD e portato alla vittoria Stefano Bonaccini. Ma il vero dato nazionale è lo spostamento a sinistra di una parte consistente dell'elettorato storico del 5 Stelle. Così il suo progetto si è fortemente ridimensionato, stabilendo l'inesistenza di una terza via alternativa al bipolarismo, cioè alla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. Nei fatti il voto ridisegna una nuova mappa dei partiti nella maggioranza, con il PD in netta risalita che chiede la fase 2 del governo. Il presidente del Consiglio Conte dovrà ora mettere in campo un compromesso per rilanciare l'azione dell'esecutivo, trovando soluzioni ai tanti dossier più delicati rimasti per giorni appesi all'esito del voto amministrativo. :23, torniamo a parlare dell'emergenza del coronavirus, ma con una declinazione, diciamo così, italiana un po' particolare, che può anche essere un'informazione di servizio utile per i medici e gli infermieri, perché in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando vero e proprio, il Ministero della Salute ha già annunciato assunzioni di medici, praticanti e infermieri per aumentare i controlli negli aeroporti, a cominciare da Malpensa, e ne parliamo con Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Benvenuto. Buongiorno. Intanto la novità si annuncia solo per Malpensa o anche per no, Fiumicino? Anche Fiumicino, anche Fiumicino. E tra l'altro devo dire che ci sono giunte anche le congratulazioni dall'OMS, perché sembra che siamo il primo paese che ci siamo mossi in questa direzione. Quindi insomma, c'è un potenziamento proprio dell'organico specifico per questa questione qua. Quanti medici, diciamo complessivamente, praticanti, infermieri, allora, si cerca di coinvolgere? Di 20 medici, sono medici questi che sono di supporto all'USMAF, che è l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea di Frontiera, quindi perché diciamo sono i primi punti di arrivo da persone che vengono dalla Cina. Sui voli diciamo pubblici, questi voli arrivano a Malpensa e a Fiumicino. Alcune linee private che prima atterravano anche in altri aeroporti adesso arrivano tutte a Malpensa o Fiumicino, quindi i controlli verranno fatti lì. Intanto le dico che il decreto mi risulta sia già stato pubblicato, per cui nel giro di 24 ore dovrebbero essere attivi questi colleghi di supporto ai colleghi che già sono presenti. Sì, però scusi, non ho capito quanti saranno il personale impiegato. Dovrebbero essere circa un 25 su Fiumicino e un 14 su Malpensa. Chiaramente Malpensa. Non sono numeri impressionanti, ma stiamo parlando solo del potenziamento dei controlli, esatto, perché in questi due, perché c'è già un organico a disposizione. Certo. Senta, certo. Ma per questi professionisti ci sarà un rischio, voglio dire, per quanto riguarda i pazienti di questi magari medici che poi intervengono anche in altri ambulatori, quali gradi, diciamo, di precauzione, che tipi di precauzione verranno presi? Al momento, allora, i passeggeri verrà misurata la febbre, sì. Ok? Se non sono asintomatici, assolutamente niente, vanno, ok? L'indicazione poi che è stata data dalle strutture sanitarie, e noi assolutamente in questo momento sa che non esiste nessuna emergenza nel nostro sì. paese, neanche nelle realtà dove stiamo operando. Noi siamo in strettissimo contatto con gli assessorati e con le strutture, con il ministero, con le strutture sanitarie, e il problema è questo: nel momento in cui una persona che fosse sintomatica, se è residente in Italia e si riferisce al suo medico di famiglia, andranno date delle specifiche, delle valutazioni. Tenga conto che è già uscita una circolare del Ministero che identifica quella che si chiama il caso, un caso sospetto, e quindi sono persone che hanno avuto una infezione acuta, febbre, tosse, e a quel punto bisognerebbe fare una valutazione. I medici di famiglia sono stati informati se negli ultimi 14 giorni sì. Hanno soggiornato in Cina, allora in qualche modo dovrebbero essere segnalati alle autorità competenti. Adesso però vi dico che non esiste nessun allarme in questo senso, esiste invece assolutamente un allarme. Senta però Corti, sì, scusi, le volevo chiedere due cose velocemente prima di salutarci. Una è questa: un ascoltatore chiede giustamente il periodo di incubazione, che questo ascoltatore asserisce essere 14 giorni, non lo so se sono 14 sono giorni. Sono 14 ma... giorni, esatto. sì. Allora, diciamo, non rischia di vanificare questi controlli per quanto riguarda la presenza di sintomi? Cioè, se io sto incubando il virus, passo al controllo e non ho alcun sintomo, è possibile questo? Questo sì, perché nel momento in cui mi permetta, una persona ha contratto l'infezione ma non è sintomatica, come possiamo non fare? C'è modo, non c'è modo, cioè noi possiamo controllare quello che è, diciamo, misurabile, il resto certo, non possiamo fare. Bisognerebbe bloccare le persone per 15 giorni all'interno certo, dell'aeroporto. Però questo c'è un messaggio non siamo ancora che, questo, bisogna, sì. che bisogna dare, un messaggio importantissimo, che è quello che riguarda, noi siamo nel pieno della vaccinazione, della campagna di vaccinazione, sì. perché siamo in pieno epidemia influenzale, per cui la raccomandazione ai pazienti di sottoporsi ancora alla vaccinazione, e i medici di famiglia hanno a disposizione i vaccini, e questa è una cosa molto importante. Un'ultima cosa, scusi, giusto ricordarlo. Prego. Corti, le voglio chiedere invece per quanto riguarda gli arrivi via nave, un altro ascoltatore chiede, non è, diciamo, una sua competenza il controllo, diciamo, degli arrivi dalla Cina, però non so se ai tavoli col governo avete parlato anche di questo, se ci può essere un interesse anche in questo senso, cioè gli arrivi delle navi nei porti, e dove ci può essere personale cinese che magari sbarca a terra. Tenga conto che l'USMAF, che è l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, sì. Ha la responsabilità anche dei punti di arrivo non via aerea, però la necessità e il coinvolgimento nostro in questo momento è solo negli aeroporti di Malpensa e di Fiumicino. Grazie a Fiorenzo Corti, vice segretario del FING, per essere stato con noi. Buona giornata. 13:29, ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, vi racconteremo anche la storia della procura di Catanzaro, dove per il mancato deposito di una sentenza sono stati scarcerati 5 imputati condannati per gravi fatti di 'ndrangheta, tra poco. Effetto giorno. La Cina ha intrapreso una lotta seria contro il coronavirus, non terrà nascosta l'epidemia, così il presidente cinese Xi Jinping, oltre 4.500 i casi accertati, 106 le vittime. Maggioranza Bonafede annuncia 9 miliardi di investimenti nella giustizia, Renzi dopo il voto chiede un'agenda più riformista. Rimosso da Facebook il video di Salvini al citofono di un cittadino bolognese per la piattaforma, è fuori dagli standard sull'incitamento all'odio. Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, Italia bocciata dalla Corte di Giustizia Europea. Catanzaro, il giudice non deposita le motivazioni della sentenza, scarcerati 5 boss di 'ndrangheta condannati un anno fa. Stasera torna il calcio, alle 20.45 si gioca Milan-Torino, quarto di finale di Coppa Italia. :13:35, nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. Quelle che avete appena sentito sono i titoli della giornata di oggi, le notizie principali. I vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Io leggo al volo alcuni messaggi. Vediamo, Dario scrive: come al solito la buffonata italiana, occorre chiudere gli accessi dalla Cina o almeno porre tutti in quarantena. È buffo come si passi da messaggi come questi a messaggi di chi invece sottolinea che per ora in Italia non c'è neanche un caso e quindi di che cosa stiamo parlando. Quindi diciamo le percezioni sono come sempre molto diverse. Ancora un altro ascoltatore: le persone che arrivano dalla Cina via aereo o via nave non dovrebbero comunque essere messe in quarantena con o senza sintomi? Ne abbiamo appena parlato poco fa con Fiorenzo Corti del sindacato dei medici. Un altro ascoltatore chiede: ci si può ammalare due volte del medesimo coronavirus? Non lo so, certo che sarebbe una sfiga mostruosa, scusate la parola, ma al di là delle battute ci informeremo. Come sapete ogni giorno cerchiamo di dare delle risposte con i nostri esperti. E poi un altro ascoltatore che dice: Nicola, ho capito male, ma che relazione ci sarebbe tra il vaccino anti-influenzale e il coronavirus? Sempre in riferimento all'intervista di Corti. Nessuna, credo io, assolutamente nessuna, non sono un medico ma non c'è nessuna relazione. Credo semplicemente che Corti forse volesse dire diminuire i casi di influenza per diminuire i casi di potenziale allarme, visto che è già capitato che una normale influenza venisse scambiata per coronavirus. Quindi meno ce ne sono in circolazione, meno in questo momento si possono procurare allarmi e quindi anche problemi un po' a tutti. Questo forse è l'unica relazione che c'è. E poi ancora tante altre cose, va bene, vediamo se più avanti leggiamo ancora qualche altro messaggio, oggi davvero molti. Intanto sentiamo il punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Disallineamento è la parola chiave del dopo voto in Emilia e Calabria. Descrive lo scostamento tra ciò che sembra diventato il paese e la rappresentazione che ne fornisce il Parlamento. L'Italia è tornata bipolare, ma le Camere sono impigliate nel tripolarismo liquido che è lo schema inventato dai 5 Stelle, che ora con Crimi rivendicano di essere comunque l'ago della bilancia, cosa che ha sempre pensato di essere Renzi e che ora pensa anche di essere Zingaretti, confortato dal voto emiliano. La schizofrenia strutturale aumenta l'esigenza di visibilità delle singole forze che compongono il Conte 2. I temi non mancano, dal fisco alla giustizia, dalle autostrade alla green economy, ma soprattutto conta una stagione di nomine, 400 ruoli che definiscono la vera rete del potere economico e politico. La spartizione è già cominciata, c'è un formidabile vincolo esterno che induce tutti al compromesso, le elezioni anticipate, che di fatto nessuno vuole, non i 5 Stelle, i cui 300 parlamentari tornerebbero per la gran parte alla loro vita precedente, non Italia Viva, che non sa ancora se supererebbe un eventuale quorum. Così il disallineamento si riallinea secondo il crisma più antico che fa della politica l'arte della spartizione del potere. Ancora un messaggio sul coronavirus, perché ne sono arrivati tanti. Luigi da Milano scrive: che se cronaca, mio figlio è tornato ieri dalla Cina a Malpensa, nessun controllo. In Cina ci sono le solite misure per il capodanno cinese, state diffondendo notizie gonfiate, non c'è alcun allarme. Vedete come appunto sono messaggi completamente di segno opposto. Adesso invece, come annunciato dai titoli, una notizia di cronaca che arriva dalla Calabria. È questa la notizia: 5 imputati condannati per il processo Costa Pulita, un processo per mafia contro l'Andrangheta, sono stati scarcerati per decorrenza dei termini, perché il giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro non ha scritto e depositato la sentenza di condanna con la quale un anno e mezzo fa erano stati appunto condannati questi boss locali. Risultato: sono tutti liberi. Ecco noi Lucio Musolino, cronista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Lucio, benvenuto. Buongiorno a voi. Perché questa è una notizia di cronaca locale che è stata ripresa soltanto dal Secolo e da voi del Fatto Quotidiano. È una notizia che lascia abbastanza strabiliati. Uno dice: ma com'è possibile che accada una cosa del genere? Una svista? Carichi di lavoro eccessivi? Il giudice non ha avuto tempo di depositare questa sentenza? Oppure qualcos'altro di inconfessabile, che però avrebbe tutta l'aria di un favore, un grosso favore alle cosche. Intanto la storia, no? Partiamo dalla notizia di questa scarcerazione, Lucio. Qual è la notizia? Guarda, la notizia è quella che hai detto tu. Nel 2016 sono stati arrestati molti esponenti della Cosca Mancuso nell'ambito dell'inchiesta Costa Pulita, che era un'inchiesta della DDA di Catanzaro. Sì. Dopo gli arresti è iniziato il processo, buona parte di loro hanno scelto il rito abbreviato. C'è stata una sentenza, e una sentenza che, di condanna dei boss. Il problema, ma che pene? Quali pene hanno ricevuto? Quali erano i reati ipotizzati? I cinque rilasciati, scarcerati nei giorni scorsi, hanno preso pene dagli 6 anni ai 10 anni. Bene, abbastanza importanti, perché c'era l'associazione mafiosa, c'era il concorso esterno, c'era il favoreggiatore del boss che si occupava di bonificare un bar dove il boss era solito incontrare gli altri affiliati e programmare le attività illecite della famiglia Mancuso. Tu hai fatto la giusta analisi e certamente non possiamo stabilire il perché sono stati scarcerati. Sono stati scarcerati, le motivazioni la sappiamo, non è stata scritta la sentenza, e siccome ancora per loro è una carcerazione preventiva, e certo, quindi non stanno espiando una pena, dopo un anno e mezzo dalla sentenza, se non sono state depositate le motivazioni, in attesa del processo d'appello, dopo 4 anni quasi di carcerazione preventiva, i boss e gli altri affiliati sono stati scarcerati. Ecco, noi aggiungo, il problema è il perché. Certo. Non abbiamo elementi per poter sostenere che il giudice, non abbia scritto la sentenza per favorire i boss. Lucio, certamente noi stamattina abbiamo fatto, ci siamo anche confrontati su questo, una verifica in procura, e insomma, la notizia che ci è stata detta è che si tratta comunque di un caso che è stato definito serio, no? All'attenzione. Assolutamente, per cui, è un caso serio, perché noi ci troviamo in una terra dove l'Ndrangheta condiziona anche l'aria che si respira in Calabria, che respirano i calabresi. Il problema serio invece è che al momento, a fronte di un potenziamento di organico giustissimo, sì, della procura di Catanzaro, soprattutto dopo l'arrivo del procuratore Nicola Gratteri, il Ministero della Giustizia non ha potenziato un ufficio altrettanto importante, che è quello dell'ufficio CIP-CUP. Basta pensare che sono quei magistrati che chiamati a valutare le inchieste della procura, chiamati a decidere sulle intercettazioni, chiamati a decidere sulle ordinanze di custodia cautelare, chiamati a decidere sulle udienze, sulle sentenze. Quindi se pensiamo che la procura ha 26 magistrati, mentre l'ufficio GIP ne ha soli 8, È facile capire come, se non si aumenta l'organico dell'ufficio GIP, dell'ufficio GUP e del tribunale, la parte quando le inchieste arrivano nella fase processuale rischia di crearsi un imbuto. Al momento non ci sono elementi. Sicuramente il Ministero della Giustizia manderà il CSM, manderà un'ispezione per verificare cosa è successo, ma rischia di trovarsi anche davanti all'ipotesi che è stato un episodio dettato dalla carenza di organico. Staremo a vedere, sicuramente, come dici tu, Lucio Musolino, ci sarà probabilmente anche un'ispezione, staremo a vedere. Bisogna anche ricordare, grazie intanto per essere stato con noi, proprio oggi il ministro della giustizia Bonafede ha annunciato investimenti, 9 miliardi di investimenti nella giustizia. Sicuramente questa è una procura che ha bisogno di investimenti, quella di Catanzaro, e tra l'altro una procura dove c'è anche un procuratore aggiunto trasferito perché indagato per corruzione. 13:44 minuti, è il momento di rilassarci con la giornata sportiva che verrà raccontata, tutti convocati, la sintesi dello sport. Carlo Genta. Ciao Alessio, allora. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, dopo la puntata di ieri, sì, assolutamente sui generis, certo, di cui non totalmente non mi pento, anzi rivendico, perché qualcuno ha detto ah, calcio, c'è stato qualcuno che ha criticato, sì, perché avete parlato di Kobe Bryant. Sai, non mi sembrava il caso di ieri, abbiamo tutta la settimana, tutti i giorni, tutto l'anno per raccontare cosa è successo la domenica, ieri mi sembrava il caso di parlare di altro, forse un po' più importante. Oggi invece normalmente torniamo a parlare di tutto lo sport come sempre facciamo, calcio compreso, comprese le esternazioni di Sarri che non sono piaciute a una certa parte della juventinità, compreso il tennis perché gli Australian Open arrivano vicino alla fase cruciale, compreso il Bar Tour con Bartoletti e Turrini, che immagino scatenati dalle 14:30 in poi. Grazie Carlo, appuntamento naturalmente con te a tutti i convocati. Adesso invece noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco insieme ai giornali internazionali letti da Giulia Crivelli.